Questa mattina sono uscito per andare dal dottore a fare il vaccino anti-influenzale. Sono uno di quei soggetti ai quali è consigliato fare il vaccino anti-influenzale, una cosa alla quale io tranquillamente non mi oppongo, e quindi da bravo ascoltatore dei consigli del mio dottore sono andato a fare questo vaccino influenzale la mattina molto presto. E quindi verso le 9:15, 9:20 esco, ne approfitto dato che arrivo un po' presto per andare al bar a fare colazione, una cosa che io non faccio ultimamente. Diciamo, è stata una mossa quasi ardita, quasi coraggiosa, diciamo, da parte mia. E mentre ero dentro al bar mi sono reso conto anche perché considero una mossa ardita, quindi mascherina e tutto quanto. E c'era un vecchio che faceva avanti e indietro su tutto il bancone, tutto il bancone se l'è fatto tutto avanti e indietro. Più avanzava verso me, più cercavo di allontanarmi con garbo, fino a che ovviamente poi sapete che insomma il mio garbo dura quei 4 secondi e mezzo. Al quinto già, insomma, comincia a sentirsi un po' di ruggine, un po' di ruvido. Poi c'era un'altra signora, sempre anziana, che con la mascherina abbassata rideva sempre lì sul bancone vicino a dove dovevano essere poggiate le tazze dei nostri cappuccini. Ovviamente voi potete capire, insomma, quanto la gioia fosse in me. E a un certo punto qualcuno è entrato così, bellamente, allegramente, e ha detto buongiorno. Buongiorno. Che voglio dire, vengono fuori. Che cosa vuol dire chiudere i locali alle 24? Devastando un'intera filiera, un intero settore. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia, che ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima, dove sono? E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione per dire che è ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No. No? Se non sta 1,5 metri, no. Allora... Tutti questi DPCM sono incostituzionali, lo sappiamo bene, sono il simbolo dell'autoritarismo da regime sanitario mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Altro che 25 aprile. Abbiamo deciso di introdurre il cosiddetto mandato zero. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Mamma colpita da questa situazione. Avevo già capito che il sistema non era corretto, da quello che mi dicevano, da quello che si inventavano. Signora, allora oggi mare? Sì, sì, certo. Oggi a mare. Però non avete un po' paura? Siete tutti sono un po'. Non ce n'è Covid! Non ce n'è Covid! Non c'è niente! Buongiorno! Runtime Radio! Ne fa un'altra! Benvenuti cari amici di Runtime, benvenuti, io sono Simone Pizzi, questo è il mio nuovo podcast, è tanto che non faccio un podcast da solo, forse probabilmente non l'ho neanche mai fatto, e in tanti anni di podcasting ho sempre sostenuto e aiutato progetti, collaborato, fatto dei talk show insieme a tanti altri, ho sempre pensato di fare una mia trasmissione avevo iniziato forse con l'idea tramite Runtime, con Runtime by Night, a provare a fare una cosa da solo, ma mi sono reso conto immediatamente che fare una trasmissione di notte senza avere brani musicali da solo è forse qualcosa di veramente complicato, e quindi anche lì è diventata una cosa corale, che poi comunque la coralità in generale è una delle cose che a me piacciono di più, cioè stare insieme agli altri, approfittare di questa passione che è il podcasting, che deriva da una passione precedente che era quella del CB e in generale comunque della radio, quindi del parlare, e poi parlare di notte, ragazzi, ha il suo fascino. E però mi sono reso conto che in effetti non avevo mai sperimentato il tentativo di fare un podcast da solo, dove praticamente provavo ad esprimere determinate idee, considerazioni o passare della musica o roba del genere, però poi in realtà non l'ho mai fatto, anche perché mi sono reso conto che forse ci sono dei limiti, no? Nel senso, nelle mie capacità. Una cosa è essere un po' l'istrione che fa lì un po' il, come dire, il conduttore di un qualcosa, rimpallando, moderando e via dicendo, è una cosa invece cercare di esprimere delle idee, delle considerazioni mie personali, e cercando magari di approfondire dei temi, e forse non è proprio nelle mie corde, anche se per un periodo di tempo ho pensato che fosse così, ma probabilmente mi sbagliavo. Sono abbastanza convinto che mi sbagliavo, però l'idea è sempre rimasta, insomma, diciamo, quel tentativo, insomma, di provare a fare comunque un qualcosa un po' in solitaria, di fare un po' di talk radio, di stare insieme a voi, di chiacchierare. Però insomma, cerchiamo anche un po' di ricostruire l'idea di quello che è questo podcast e perché si chiama Buongiorno a un cazzo. Quali sono le fonti di ispirazione? Allora, le fonti di ispirazione, allora, ce n'è una in particolare che deriva dai tempi di tutto un podcast, che era il programma che facevo con Michela De Paola, mia moglie, molti anni fa, dove facevamo una rubrica che si chiamava Voce alla Rivolta, dove chiedevamo praticamente a tutti quanti gli ascoltatori di esprimere la propria rabbia, la propria idea o quello che comunque avevano bisogno di esprimere all'interno di un contesto che era quello di una fase calante del berlusconismo, insomma, in una fase un po' particolare della vita politica italiana. E Voce alla Rivolta comunque ha funzionato in qualche maniera, e devo dire che è stata anche una bella soddisfazione, anche perché io, per inclinazione, lo dico qua così almeno voi potete anche smettere di ascoltare il podcast e cancellare il feed, sono una persona, forse molti lo sanno, l'ho detto diverse volte, sono una persona di ispirazione socialista, cioè sono uno ancora legato a determinati schemi, diciamo, di pensiero, non socialismo nel senso inteso come socialismo reale, così come tanti lo hanno definito, comunque concettualmente, ideologicamente, un'ispirazione socialista o socialdemocratica mi è sempre appartenuta, per tradizione, per famiglia, ma anche per sensibilità, perché io penso che poi sia anche una questione strettamente legata alla propria sensibilità. Questo discorso mi porta ad essere comunque incline al discorso della rivolta. La rivolta, la protesta sono un indice naturale di chi ha una certa visione della politica. Poi ieri sera abbiamo visto insieme a Michela Il Maestro e Margherita, dove ovviamente il maestro diceva, nel senso, chi vede il potere come una forma di violenza è comunque ispirato da concezioni dall'anarchico al socialista, quindi bene o male, insomma, diciamo, è un'inclinazione naturale quella del vedere, di concepire la protesta, quindi anche la rivolta, anche se quello che sta succedendo adesso in Italia, insomma, mi sta portando verso una sorta di involuzione concettuale da questo punto di vista, ed è forse la cosa che mi fa arrabbiare di più, l'essere stato privato del sapore della rivolta, e vedere utilizzato praticamente strumenti come la protesta, la piazza e diciamo, anche l'opposizione radicale per stronzate. Ecco, per stronzate, diciamoci la verità, insomma, per quelle che io concepisco come stronzate. E questo è un po' una sorta di stupro, no? Di privamento, cioè di essere comunque, ti viene strappata una parte della tua cultura e della cultura di un certo modo di fare politica a favore di cosa? E va bene, parleremo poi più in là. Un'altra fonte di ispirazione è il buongiorno, il buongiornismo, chiaramente, no? Questa è l'era dei social, del buongiornissimo caffè, cosa con la quale noi scherziamo molto, noi nel senso nei nostri gruppi Telegram, tra l'altro invece di creare un nuovo gruppo Telegram, una nuova pagina Facebook e via dicendo, io vi suggerisco di venire se volete discutere con noi anche di questi temi o di temi che tratteremo all'interno di questa trasmissione sui gruppi Telegram tipo MDB The Original One, quindi MDB The Original One, che è praticamente il gruppo della famosa trasmissione Morti di Bestemmie che facemmo sul Runtime, ma che probabilmente riusciremo anche a riportare. E noi prendiamo molto in giro anche questa cosa del buongiornissimo caffè. E proprio stamattina, tra l'altro, Luca Lucacchio, nostro ascoltatore da un sacco di anni, ha detto: seguirò questa tua trasmissione soltanto perché proprio questa mattina sono stato sommerso dai buongiornissimi del gruppo, dei gruppi WhatsApp delle mamme dei propri, insomma, delle scuole, ovviamente dei propri figli, che penso che sia, noi fortunatamente questa cosa l'abbiamo un po' strisciata io e Michela, però penso che deve essere il male assoluto, i gruppi WhatsApp delle mamme dei compagni di scuola, io penso deve essere una cosa terrificante. Grazie a Dio, insomma, appunto, come ho detto, l'abbiamo strisciata. Un'altra fonte di ispirazione è il nostro amico Leo Varghion, con i suoi podcast in generale, che comunque lui fa questi podcast in solitaria, se li prepara, se li struttura, ma poi fa anche delle dirette sempre su Runtime il martedì e il giovedì alle 7:20 di mattina, un orario un po' particolare ma secondo me azzeccato, interessante, anche perché comunque noi ci svegliamo a quell'ora e se non hai una trasmissione radio particolare che ti ascolti, io ti suggerisco, insomma, di ascoltarla, perché a volte, che so, si fa il libro game insieme, a volte c'è una critica su una serie televisiva o su un film, a volte si riflette su alcune tematiche, un po' come faremo anche noi all'interno di questa trasmissione. Io devo dire, l'ho già detto a Leo, non sono sempre in linea con il suo pensiero, ma questa è Runtime e l'orgoglio di essere all'interno di Runtime è quella di non avere nessuno che interferisce su quelli che sono i contenuti editoriali di una trasmissione. Sempre nel rispetto della decenza, sempre nel rispetto comunque della legalità. Legalità nel senso, non qui, non troverete una trasmissione dove c'è qualcuno che comincia a bestemmiare a rotta di collo. Anche se così, occasionalmente è capitato per errore, diciamo così. E quindi Leo è un'altra di quelle fonti di ispirazione abbastanza importanti che ultimamente mi ha dato comunque il là per questo tipo di trasmissione. E l'ultima fonte di ispirazione, anche se non è l'ultima, è un nostro amico, possiamo dire tranquillamente, Morris, che nei nostri gruppi Telegram, insomma, quindi quello dei videogiochi, quelli, insomma, legati a Runtime e non solo, anche ad altri podcast che magari sapete, poi alla fine diventa sempre un po' tutto trasversale, no? In qualche maniera c'è sempre un incrocio, c'è sempre una compartecipazione, una collaborazione, che è la parte anche più divertente di fare podcast. Lui praticamente registra ogni mattina un messaggio di buongiorno che a volte è un po' faticoso, a volte è più grintoso, a volte è generoso, a volte, insomma, e ogni volta è diverso e con un background musicale sempre diverso. E questo buongiorno, dopo averlo registrato, lo sparge su tutti quanti i gruppi. Può sembrare un po' una sorta di stalking, ma secondo me è comunque una cosa interessante, un modo particolare comunque di dare il proprio contributo. Cioè, io vedo questa, invece di dirvi buongiornissimo caffè con la tazza dei caffè col cuoricino dentro, che non è rappresentativa di un cazzo praticamente, cioè nel senso, non, anche perché ci sono delle mattine che ha voglia di buongiorno, buongiorno e buongiorno un cazzo, come appunto dice la nostra trasmissione. E quindi questa è un'altra delle fonti di ispirazione di questo show. Buongiorno, so che viso avesse, neppure come si chiamava. Con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli. Ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco invece l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista, ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembravi il treno anch'esso, un mito di progresso lanciato sopra i continenti. Lanciato sopra i continenti, lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite. Sembrava avesse dentro un potere tremendo, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite, la stessa forza della dinamite. Ma un'altra grande forza spiegava allora le sue ali. Parole che dicevano gli uomini son tutti uguali. E contro ai re, ai tiranni, scoppiava nella via. La bomba proletaria illuminava l'aria, la fiaccola dell'anarchia. La fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione. Una cosa che mi sento di dire immediatamente è quella di, perché già so, abbiamo già distribuito praticamente l'immagine teaser del podcast nei nostri gruppi e insomma via dicendo, già mi è stato chiesto l'indirizzo del feed e tutto quanto. Allora, quello che io vi dico subito, non vi aspettate una distribuzione capillare di questo podcast, non vi aspettate di trovare Buongiorno un cazzo nei grossi aggregatori tipo Spotify, iTunes. Lo troverete solo ed esclusivamente qui su Spreaker, nel network di Runtime. Ci sarà un feed RSS, quindi se avete comunque i vostri software con i quali potete caricare il file RSS, il feed RSS, lì a quel punto avrete accesso a tutte quante le puntate di questa trasmissione. Ma non lo cercate nei grossi aggregatori, perché come è scritto un po' nella descrizione che troverete nel feed stesso, appunto nella pagina Spreaker di Buongiorno un cazzo, l'idea è quella di fare un podcast anche un po' pirata, no? Cioè, nel senso, anche qui un'altra fonte di ispirazione, non me ne vogliate, non pensiate che io sia allineato con un certo tipo di pensiero, non è così, però vi spiego, vi racconto una cosa e ve la spiego. Per anni io sono stato un sostenitore del giornale Lotta Comunista. Loro mi invitavano sempre alle loro riunioni, io ho detto io non ho niente o quasi niente da condividere con il vostro pensiero, che è già partito dal presupposto che la democrazia parlamentare è un fallimento, no? Quindi c'è, non c'è discussione su questo, si può anche discutere, no? Cioè, nel senso, però per loro non c'è discussione su questo. Io l'unico motivo per cui vi sostengo è perché voi siete la stampa clandestina, la stampa d'un tempo, la stampa che ancora mantiene un certo tipo di coerenza dal punto di vista proprio essenziale, quindi proprio nella propria esistenza. E dato che comunque ogni forma di stampa, clandestina o meno, ha il diritto per me di esistere, ed è qui poi parleremo, no, del fatto di finanziamento dello Stato ai giornali e via dicendo. Ecco, io l'ho sempre sostenuti, sostenuti, ed è per questo che io vorrei fare una cosa del genere. Cioè, non voglio una distribuzione capillare, voglio un posto dove puoi anche non essere d'accordo, ma se mi vuoi sostenere mi vieni ad ascoltare e magari condividi, o magari più che altro partecipi, che è quella la cosa più divertente, più piacevole. Mi contesti anche, mi critichi, mi insulti, puoi fare quello che vuoi. L'importante è che comunque tu partecipi, ascolti e comunque non cancelli, diciamo, l'esistenza di questa realtà un po' pirata, un po' clandestina, un po' sottobanco, un po' nell'ombra, no? E quindi questo non aderire a Google, a iTunes di Apple o a Spotify o a tutti i grandi aggregatori è un po' un modo di mantenere quello spirito, no? Perché io lo vedo molto su YouTube, questo tipo di meccanismo. Lo YouTuber, per essere aderente al pubblico che poi comunque gli sostiene e quindi gli dà soldi anche indirettamente, perché visualizzazioni, indicizzazioni, comunque soldi, alla fine perdono la loro anima, perdono proprio il loro spirito, perdono il loro senso di essere. E questa è una cosa che io non posso e non voglio tollerare in una trasmissione come questa, che semmai, ripeto, non mi ascolti, ma io devo dire e devo esprimere quelle che sono le mie considerazioni, anche da vecchio infame. Però ricordatevi che sto vecchio infame, che rompe un po' le balle, ha visto un mondo che era completamente diverso da quello di oggi, pur essendo un mondo di 30 anni fa. Quindi non stiamo a parlare di una cosa, credo, del vecchio secolo, degli anni 60, 50, 30 o prima o durante la guerra e via dicendo. Stiamo parlando comunque di un lasso di tempo breve. E il mondo che io avrei voluto si è disgregato nella vostra ottusità in generale, nella mediocrità, nel non pensiero, nel pensare che partecipando a una protesta allora loro esprimono la propria libertà. Ed è questa una cosa, insomma, sulla quale poi torneremo sicuramente. Quindi non cercatemi su iTunes e non mi scrivete come già avete fatto per Runtime di Notte, e lì vi ringrazio, perché invece Runtime di Notte già c'è un altro tipo di concezione. Cioè, oh, ma non te trovo su iTunes. Non mi troverai su iTunes, non ci sarò, non vorrò esserci. Questo un po' a discapito anche dell'indicizzazione, della monetizzazione del podcast all'interno di Runtime, ma di questo podcast non ce ne frega niente. Non che questo podcast non aderisce al programma pubblicitario di Spreaker, aderisce, non me ne frega niente se sono indicizzati, non indicizzati, se sono profilati, non profilati, non mi interessa questo tipo di discorso, perché comunque non è che noi siamo qua per divertirci, però se comunque viene qualcosa che sostiene il progetto io sono sempre contento. Ok, quindi in buona sostanza di che si tratta? Si tratta di un podcast dove una volta a settimana di mattina, prendendo spunto da quello che ci circonda o da storie che voglio raccontare che magari non sono così collegate alla quotidianità, avrò appunto modo di, tra virgolette, raccontare appunto queste storie e di esprimere le mie considerazioni. Le mie considerazioni non saranno delle considerazioni iper approfondite da studioso di scienze politiche o da grande analitico della politica, appunto. Saranno comunque delle considerazioni molto terra terra di una persona che comunque può avere delle opinioni di una persona comune all'interno di un contesto dove l'osservazione mi ha portato a dire che comunque, per dire realmente che stiamo usando il cervello per poter permetterci di dire agli altri sveglia, significa che abbiamo fatto un ragionamento interiore nostro sulla nostra sensibilità, e non perché il pensiero è diverso da un pensiero globale o da comunque un pensiero istituzionalizzato, allora vuol dire che tu sei con la mente più aperta, perché la gente che fa così finisce per fare il percorso opposto, ossia per fidelizzarsi, per settizzarsi, perché poi è importante anche ogni tanto il che è in noi e che alla fine incombe sempre questo modo di voler essere parte integrante. Io questa cosa nella politica l'ho vista per la prima volta, poi ce ne saranno stati milioni di casi chiaramente, però l'ho vista per la prima volta nei fan di Segni. Non so se vi ricordate Segni, no? il referendista lì, insomma, quello che voleva fare le riforme tramite referendum e via dicendo, no? E parlando con molti dei propri, insomma, adepti, alla fine quello che succedeva era questo atteggiamento, un po' il tipico meccanismo settario: noi siamo i migliori, noi siamo i più buoni, noi siamo quelli onesti, che poi si è trasferito nel Movimento Viola, nel Movimento 5 Stelle, in tante altre cose, no? Che il procedimento è sempre quello della setta. Qui c'è il mondo buono e i tuoi amici. Chi ti dice il contrario è al di fuori, è il tuo nemico, è il mondo che è brutto e cattivo, e sono le persone che non ti vogliono bene. Tutte le persone che hanno comunque una serie di problematiche anche dal punto di vista della solitudine, dei rapporti interpersonali, hanno difficoltà a trovare una propria collocazione nel pensiero generale, secondo me poi alla fine cascano all'interno di questo meccanismo, e questa è un po' la cosa che vi deve far riflettere. Quando un pensiero è anche all'opposizione realmente, ed è concepito da una minoranza ed è pensato da una minoranza, spesso e volentieri è sicuramente più genuino di un pensiero che poi finisce rapidamente a diventare un pensiero di maggioranza. Quando diventa un pensiero di maggioranza, lì comunque anche la persona un po' meno incline al ragionamento dovrebbe riflettere. Quantomeno riflettere, insomma, questo è il discorso, perché dietro a comunque un pensiero di successo, a un pensiero di larga diffusione, c'è una banalizzazione del linguaggio e banalizzazione probabilmente anche del concetto stesso. Questo è un po' diciamo quello che volevo dire. In questo podcast, appunto, noi faremo questo, parleremo un po' come la persona della strada, magari io butterò lì delle riflessioni e poi magari voi nei vostri commenti cercherete di esprimere quelle che sono le vostre opinioni, o cercherete anche magari di portarmi a fare dei ragionamenti anche diversi da quelli che possono essere il mio. La trasmissione non sarà live, questo penso, insomma, che è abbastanza chiaro, perlomeno inizialmente non sarà live, poi magari ci saranno degli speciali dove potremmo anche discutere insieme in live, magari approfittando magari di qualche tematica particolare. Non è escluso che registrerò degli interventi esterni su determinate tematiche, o comunque che mi porterò un ospite all'interno della trasmissione, però diciamo che generalmente il programma sarà questo è quello che volevo dire. Buongiorno, un cazzo esprime rabbia? No. Ossia, c'è una rabbia, c'è sempre una componente di rabbia quando si sente l'esigenza di esprimere e anche di sfogare un po' quelle che sono le nostre frustrazioni, ma non è rabbia personale, è rabbia globale, una rabbia collettiva, che non è l'andare ad intercettare il commerciante, portarlo in piazza e vederlo strillare abbiamo fame, perché questo commerciante che va in piazza a dire abbiamo fame insulta milioni di persone che la fame ce l'hanno veramente, e questo è un po' il punto cardine anche di un programma come questo. La rabbia nel senso, ragazzi, ma veramente state messi così? Ma veramente non avete voglia un attimo di fermarvi, di stoppare, e avete questa esigenza di collettivizzarvi nell'urlo collettivo, nell'urlo di piazza, nell'urlo di protesta, a prescindere da quello che andate ad urlare? a prescindere da quelle che sono veramente le vostre esigenze, di quello che veramente avete bisogno. Siamo veramente arrivati a questo punto? Beh, se siamo arrivati a questo punto, ragazzi, c'è bisogno di un programma che vi dica sì, buongiorno, ma buongiorno un cazzo.